inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare nella tua via e ti ricordi quando c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo sono ritagli di dettagli, se no perché ti stai immediatamente ricordando proprio di me. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto. Mi sembra matta. Non credo che ti voglia così tanto bene. Errori di grammatica lei non ne fa, e senza errori non si ha mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, fallo tacendo, perché se dici a un'altra il nome mio ti stai sbagliando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è. Sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Non dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente. A furia di dettagli stai cambiando e già si sente la piccola scintilla, fa il grande incendio. L'amore tuo non può morire così. Comunque se tu hai bisogno di qualcosa, io sono qui. È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu